Quanti tra gli ascoltatori hanno qualche nozione di teologia? Un campo di studi che io personalmente non mi stancherò mai di raccomandare, perché le sue ipostasi riflettono il gioco delle valorizzazioni con una chiarezza che a livello terreno la filosofia riesce spesso ad occultare. E quanti dunque hanno una qualche pratica del settore converranno con me che gli angeli, se non esistessero, bisognerebbe davvero inventarli. Poche altre figure spirituali si sono rivelate, a pensarci, così utili e altrettanto versatili, contribuendo con la loro sola presenza alla soluzione di una quantità di problemi che senza di loro avrebbero procurato seri fastidi ai pensatori più agguerriti. Dalla funzione originaria di messaggeri e portaordini, una funzione forse modesta ma indispensabile, visto che qualcuno doveva bene esortare Giuseppe a prendere la via dell'Egitto o avvertire le pie donne di non cercare tra i morti colui che stava tra i vivi, hanno sviluppato con i secoli uno spettro di funzioni sempre più complesse e sofisticate. In quanto protagonisti nell'ingegnosa rielaborazione di un oscuro accenno profetico della storia della ribellione di Lucifero e dei suoi compagni, hanno risparmiato all'Onnipotente l'imbarazzo di dover creare direttamente il maligno, che sarebbe stata una bella complicazione per tutti. Organizzati in 9 cori da quell'autentico genio della speculazione sistematica noto come pseudon Dionigi l'Areopagita, si sono rivelati preziosi per colmare la distanza tra il Dio trascendente delle scritture e questo basso mondo, permettendo ai dotti cristiani di utilizzare senza problemi una dottrina immanentista come quella neoplatonica, con tutti i vantaggi che in termini di valore gliene venivano. Combinati coro per coro con i 9 cevi della cosmologia tolemaica, hanno fornito una comoda spiegazione dei moti celesti a un mondo che ancora ignorava i principi della meccanica razionale. E anche dopo essere stati espropriati da quella funzione dal diffondersi delle leggi di Newton, sono restati sulla breccia come protettori e custodi di ogni singolo essere umano e anzi, in questa loro ultima personificazione, sorretta com'è più che della dottrina, della devozione popolare, io li trovo particolarmente preziosi. L'idea che ciascuno di noi con i tempi che corrono possa contare sul suo bravo angelo custode mi sembra tra le più confortanti, e non ditemi che, visto come va il mondo, questi angeli non devono essere poi dei protettori particolarmente efficienti. Se non altro ci provano. Trovo ingiusto così che, come leggo in un trafiletto del venerdì di Repubblica del 26 aprile ultimo scorso, il Vaticano abbia diramato certe istruzioni che degli angeli intendono limitare drasticamente il culto. Sembra infatti che la competente congregazione diretta dal cardinale Medina Estevez abbia pubblicato un documento di 300 pagine in cui si raccomanda, tra l'altro, di evitare con cura la venerazione di tutte le creature alate che non siano citate né nel Vecchio né nel Nuovo Testamento. E gli angeli citati per nome nella Bibbia, non vi paia strano, sono soltanto 3, i beati arcangeli Gabriele, Michele e Raffaele. Tutti gli altri nomi noti, Uriele, Giofiele, Ciamuele, Zadchiele, ci vengono da fonti meno qualificate e i loro titolari vanno quindi considerati delle pseudo esperienze spirituali, dice Medina Estevez, delle imitazioni dalle quali è consigliabile diffidare. Il documento pontificio, in realtà, si scopre leggendo, più che con gli angeli ce l'ha con certi loro estimatori troppo entusiasti, che rientrano per un verso o per l'altro in quel campo della religiosità New Age di cui il Vaticano, come avete notato, diffida più di tutto il resto della concorrenza messo assieme. Nel giro New Age, a quanto pare, i vari Uriele e Zadchiele vengono tenuti in particolare considerazione. Sono delle autentiche star, si legge, dei simboli un po' fricchettoni di pace, equilibrio e saggezza, per cui, in base al principio che chi va al mulino si infarina, si è stabilito che da loro e da tutti i loro innominati colleghi i fedeli faranno meglio a tenersi alla larga. La decisione, vi dirò, ha una sua logica, ma a me sembra ingiusta lo stesso. Gabriele, Michele e Raffaele avranno i loro meriti, non lo nego, ma 3 angeli da venerare sono davvero un po' pochini. Io non saprei dirvi quale esattamente sia il loro numero complessivo, anche se qualcuno a suo tempo ne avrà sicuramente discusso. Ma se solo prendiamo in considerazione gli angeli custodi, dovrebbero essercene almeno 6 miliardi. più tutti quelli tenuti da parte in vista della presumibile crescita numerica dell'umanità. E dopo tutti i meriti che hanno acquisito, non è bello metterli da parte adesso che non servono più, perché certo, del maligno dei demoni dell'inferno oggi si tende a parlare meno possibile. Il neoplatonismo conta molto meno della semeiotica, a far muovere le stelle e i pianeti provvede con efficienza al Big Bang, per cui delle corti angeliche nessuno sente davvero il bisogno, e anzi può darsi che qualcuno le consideri delle entità superate e un po' imbarazzanti, qualcosa di cui vergognarsi, come ci si vergogna di indossare gli abiti passati irrimediabilmente di moda, di guidare le vecchie automobili e di utilizzare dei computer che non vadano al passo con la tecnologia più recente. E anche la Chiesa, soprattutto la Chiesa, deve mostrarsi alla page per evitare qualsiasi fastidiosa imputazione di passatismo. Ha smesso da tempo di occuparsi di cosmologia e soprattutto deve dimostrare che il suo radicamento del passato non le preclude la frequentazione del contemporaneo e di tutte le sue problematiche, nel tentativo sempre negato ma perseguito per tutta la sua storia di tenersi al passo coi tempi, è disposta a lasciar cadere un'incredibile quantità di zavorra o di supposta tale. Ma gli angeli, i nostri cari angeli, non ce li doveva proprio toccare.